Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Mercoledì 2 ottobre la School of Management del Politecnico di Milano ha presentato i risultati dell'ultimo osservatorio Smart Working. Noi stiamo molto attenti a questa nuova tendenza del mercato del lavoro. Ne parliamo con il responsabile di questa ricerca, di questo osservatorio, il professor Mariano Corso del Politecnico di Milano. Buonasera. Buonasera, dottor Melis. Allora, Corso, intanto ricordiamo subito che cos'è, o meglio, chi è uno smart worker, che cosa lo differenzia da un lavoratore normale, chiamiamolo così. Beh, diciamo così, lo smart working è una tendenza a riorganizzare, a rivedere i modelli organizzativi, la modalità di gestione delle persone, delle aziende, riconoscendo maggiore flessibilità, maggiore autonomia nella scelta degli spazi, nella scelta degli orari di lavoro, ma anche degli strumenti di lavoro, a fronte di una maggiore responsabilizzazione. In pratica do libertà ai lavoratori su quando e dove realizzare le attività a fronte di una maggiore responsabilità sui risultati, e questo è qualcosa che può rivoluzionare il modo con cui organizzo le imprese. Ecco, naturalmente non parliamo della catena di montaggio, dove insomma bisogna essere lì fisicamente presenti in certe ore, anche se non si sa mai, con la robotizzazione non è mica detto, in effetti. Però voglio dire, ci sono moltissime professioni in cui tipicamente, non so, si passa la giornata davanti a un computer con un telefono in mano, e lì farlo a casa propria, per esempio, sarebbe tutt'altro che impossibile, no? È un po' questo il concetto, giusto? Certo. Ha detto bene. Ovviamente in ogni settore parlare di smart working è diverso, va declinato differentemente, sì. Ma come ha detto, gran parte dei lavori, soprattutto sono i servizi, no? Nel mondo del terziario, sì, dei servizi. Del terziario, in realtà anche nel mondo manifatturiero ci sono tantissime attività che si prestano a essere fatte, ma quando parliamo di smart working non è tanto lavorare da casa, ma è proprio la possibilità di poter lavorare in movimento, in orari diversi, trovandosi in vacanza addirittura, in villeggiatura. Uno però per 2 ore al giorno può lavorare perché ha bisogno di farlo, no? Ma ci deve essere una infrastruttura che gli consente, diciamo, una strutturazione del lavoro che gli consente di farlo. Ecco, per la prima volta, diciamo, i dati dell'osservatorio contengono delle informazioni anche di carattere economico, delle stime del possibile impatto dello smart work. Che cosa è venuto fuori? Certo, noi abbiamo seguito le aziende che stanno facendo questo tipo di percorsi e quindi abbiamo potuto anche estrapolare dei benefici possibili. I benefici sono innanzitutto dei benefici di produttività. Andare per un'azienda a, diciamo, rilasciare una serie di vincoli su luogo di lavoro, orario e strumenti consente aumenti di produttività che sono stimabili in almeno il 5,5%. Che tradotti in soldini vengono, dato il sistema industriale italiano, soldi vuol dire 27 miliardi di euro l'anno, hai capito? Altro che il miliardo dell'IVA, ecco, insomma. Bravo, c'entrano 27 volte il ecco, problema dell'IVA. Per dire di cosa si parla in questi, lasciamo e perdere. Peraltro, attenzione, stiamo parlando di dare competitività al sistema. 27 miliardi di vantaggi in termini di competitività, e poi ci sono proprio anche invece dei risparmi su dei costi vivi che non si sostengono, no? Esattamente, perché gestire delle postazioni di lavoro che spesso sono inutili, o gestire dei costi di trasferta costa tanto alle imprese. Noi abbiamo sempre, alla luce dei casi che abbiamo seguito e delle estrapolazioni fatte, ci sono 10 miliardi in gioco che potrebbero essere recuperati in termini di costi vivi aziendali, quindi qui non stiamo neanche andando a parlare sì, troppo a fare, quindi, sì, stiamo dicendo posti di lavoro in meno, scrivanie in meno, per capirsi, no? Esatto, a questo proposito c'è una cosa che mi ha sorpreso, perché si parla come di un grande passo avanti la possibilità per i lavoratori di utilizzare le proprie attrezzature per lavorare. Ora uno resta un po', appunto, interdetto quando legge una roba del genere, perché se io sono un'azienda di costruzioni e il muratore, mio dipendente, si porta gli attrezzi, buon per me. Io non riesco a capire perché allora questa ostilità verso l'utilizzo di strumenti propri, parliamo di smartphone, di tablet, tipicamente. Guardi, ha proprio ragione, certamente ci sono delle ragioni oggettive che sono legate a problemi di sicurezza, problemi di performance, problemi di integrazione. Detto questo, è un fatto di cultura, perché bisogna arrivare a dare delle regole efficaci e poi si possono sfruttare grandi benefici per l'azienda e per il lavoratore. Grazie a Mariano Corso, a cui dico solo arrivederci, perché lunedì raccontiamo un po' di casi concreti di aziende che hanno deciso di puntare sullo smart working. Buona serata, grazie. A lunedì.